stato qui ed è rinascere il tuo sorriso. Ho mille scuse, sai, ma non le userò, perché per me tu sei più di quel che ho. Tu non mi crederai, ma giuro son cambiato. Ho perso anche me quando mi hai lasciato. L'amore è vita, sai, ma solo accanto a chi ti fa sentire vivo come sai far tu. L'amore è il sangue che bolle nelle vene. L'amore porta il tuo nome. L'amore vive in tutte queste scene e non sai spiegarti mai come. Allora abbracciami e scusa questo scemo che senza te come un ramo al vento tremo. Un bacio incredibile con tutta l'anima, non riesco a crederci che è successo a noi. Ma più forte sarà questo amore se tu vuoi. Sangue che bolle nel